Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Non è mai il momento buono per perdere il proprio risparmio, ma certamente quello che stiamo attraversando è ancora il momento meno indicato e meno indicato del solito. Questo è il motivo per cui è sempre più condivisa fra i piccoli risparmiatori, soprattutto, la tendenza a non far correre rischi al proprio denaro, tenerlo al sicuro, anche se questo può comportare dei rendimenti molto bassi. E molti degli obbligazionisti che detengono il bond convertendo 2009-2013 emesso dalla Banca Popolare di Milano probabilmente non credevano, quando hanno sottoscritto questo prodotto, di correre in realtà un rischio così alto come poi si è rivelato, e non pensavano di trovarsi a gestire la situazione che ora hanno di fronte, di cui parliamo oggi a Salva Danaio. Il convertendo è l'opzione che si può esercitare, oltre che in altri titoli di credito, anche per le obbligazioni, e che consente di trasformare le quote di debito in un equivalente di azioni, ovvero in quote di proprietà del soggetto debitore. Detto così è tutto naturalmente molto complicato, ma il prodotto di cui parliamo è stato offerto al canale retail, piccoli risparmiatori appunto della banca, ma per il suo profilo di rischio non era, per la verità, adatto a questa collocazione. Una situazione che è già stata oggetto di una istruttoria della Consob, che ha comminato una sanzione a tre dirigenti della banca. Peraltro banca che adesso, alla luce di quello che poi è successo e che vi racconteremo oggi, sta in questo momento anche studiando eventuali forme di risarcimento ai risparmiatori, ma al momento non è stata presa ancora alcuna decisione. Cosa è successo? Che cosa ha fatto infuriare i risparmiatori che hanno sottoscritto nel 2009 questo prodotto di investimento che ritenevano evidentemente sicuro? È successo che c'è stata una ristrutturazione di questo bond che è stata approvata la settimana scorsa, quindi in piena anche pausa natalizia per molti di noi, dall'Assemblea degli investitori, e che ha creato un quadro davvero molto critico per chi ha in portafoglio questo prodotto, perché la conversione in azioni prevista in origine per il giugno del 2013, quando il prodotto di investimento sarebbe arrivato a sua naturale scadenza, è stata anticipata improvvisamente al 29 dicembre. Il prezzo inoltre delle azioni è sceso molto. Il prezzo di questo prodotto è sceso molto e la perdita appunto potrebbe arrivare al 70% dell'investimento. Molti obbligazionisti seguiti dalle associazioni dei consumatori stanno considerando un'azione legale. Non si esclude, anche se non tutte le associazioni dei consumatori la pensano in questo modo, una class action. Di fatto quello che ci domandiamo oggi è: siamo di fronte ad un nuovo caso di risparmio tradito? Oggi Salva Danaio ripercorre la vicenda, che peraltro ci è stata anche sollecitata da molti ascoltatori, e cercheremo di illustrare anche i possibili sviluppi, raccogliendo, se vorrete, le vostre testimonianze all'800240024, oppure ci potete scrivere al 349-238-6666. Siamo anche su Facebook, il nostro profilo è salvadanaio-radio24, oppure ci potete scrivere a salvadanaio@radio24.it. I nostri ospiti di questa mattina, il collega del Sole 24 Ore Plus 24 Stefano Elli, non so se lo abbiamo ancora collegato, no, lo salutiamo dopo. Poi Alessandro Pedone, responsabile dell'associazione dei consumatori ADUC per la tutela del risparmio, oltre che consulente finanziario indipendente. Dottor Pedone, buongiorno, bentornato a Salva Danaio. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. E abbiamo anche l'avvocato Massimo Cerniglia, coordinatore legale nazionale di Federconsumatori. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Era da un po' che non sentiamo l'avvocato Cerniglia, che ci ha tenuto tanto compagnia in passato con la questione dei bond argentini, e ahimè lo dobbiamo chiamare sempre per queste disavventure finanziarie di molte famiglie. Allora, io vi ho già ricordato le motivazioni, i canali con cui potete interagire con noi. Prima vorrei dare un'occhiata anche a quello che accade in borsa. Vi abbiamo già spiegato i dettagli dell'aumento di capitale di Unicredit, l'operazione appunto che parte lunedì prossimo. Stamattina sono state appunto comunicate dal gruppo le condizioni di questa operazione, siccome è anche abbastanza complessa, senza starvela di nuovo a ribadire, vi racconto intanto che il mercato non apprezza particolarmente lo sconto con cui l'operazione viene fatta, e il titolo perde l'8,45%. Allora noi abbiamo deciso di organizzare domani l'intera puntata di Salva Danaio su questa operazione, per capire come si fa anche ad effettuare un calcolo di convenienza o meno da parte di chi è già azionista professionista se aderire o meno anche a questa nuova offerta di Piazza Cordusio. Tra l'altro questa vicenda trascina a ribasso anche tutte le altre banche a Piazza Affari, perché la Popolare dell'Emilia Romagna perde 4 punti, Intesa meno 3, Monte dei Paschi meno 3, l'altra grande candidata a fare un aumento di capitale, anche se per il rafforzamento del capitale Monte dei Paschi studierebbe in questo momento altre soluzioni, lo vedremo prossimamente. Azimut meno 2,59, Mediobanca meno 2,37. E tra gli altri cali bancari troviamo il punto e mezzo di ribasso di Banco Popolare e di Ubibanca. Oggi bene Fiat Industrial, guadagna 2 punti, Buzzi Unicem più 1,52. Complessivamente, non l'ho detto, il listino perde l'1,28% e quindi perde molto di più delle altre piazze europee, che sono in calo di mezzo punto, almeno Parigi e Francoforte, mentre Londra è addirittura appena positiva, più 0,06%. Direi di lasciare la borsa, andiamo adesso a riepilogarvi nella nostra scheda allora in che cosa consiste questa vicenda che sta facendo arrabbiare diverse migliaia di risparmiatori, sarebbero addirittura 15.000, che hanno sottoscritto nel 2009 questo bond convertendo offerto dalla Banca Popolare di Milano. Un buon proposito per l'anno nuovo può essere senz'altro quello di investire con molta prudenza per evitare pessime sorprese. Lo sanno bene i clienti della Banca Popolare di Milano, a cui è stato proposto un prodotto dalle caratteristiche particolari, il bond convertendo 2009-2013. Nel momento in cui hanno firmato, molti di loro probabilmente non credevano di correre un rischio così alto come poi si è rivelato essere quello di questa obbligazione, con perdite che oggi potrebbero arrivare al 70% dell'investimento. Secondo le associazioni dei consumatori, BPM avrebbe proposto il prodotto ai piccoli risparmiatori anche quando i profili di rischio non erano compatibili, o peggio ancora, modificando i profili in modo da farli combaciare. Ma al di là delle caratteristiche tecniche di quell'obbligazione e dei dettagli della complessa vicenda che ne è seguita, con le responsabilità dei dipendenti e dei dirigenti della banca, resta fondamentale ciò che una storia del genere può insegnare. È bene imparare a leggere i prospetti informativi, anche quando i tecnicismi potrebbero spaventare, provando a fare chiarezza sulla natura dei prodotti che abbiamo intenzione di sottoscrivere. È l'unico modo per essere sicuri di non aver tralasciato informazioni chiave, o nel peggiore dei casi, per accorgersi in tempo di un'omissione o della presentazione fuorviante da parte di un intermediario poco corretto, che viene meno al dovere di tutelare l'investitore. Nel 2012 il settore delle obbligazioni bancarie, nonostante le delusioni che non si è fatto mancare nei mesi scorsi, continuerà probabilmente ad essere un punto di riferimento. Per orientarsi al meglio tra titoli di Stato, obbligazioni societarie e prodotti più strutturati, sarà però importante per i risparmiatori diventare sempre più bravi a distinguere i rischi che si corrono. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta. Vedo già pronta Ernesta dalla provincia di Imperia, che è una cliente di questa banca, se non ho capito male, e ha partecipato a fine dicembre all'assemblea degli obbligazionisti di cui abbiamo parlato. Ernesta, buongiorno. Buongiorno. Senta, io vivo a Milano, sono una milanese, adesso mi trovo in questa per le feste natalizie. Allora, io sono cliente della Banca Popolare di Milano da più di 40 anni. Mio fratello era un funzionario della Banca Popolare di Milano e noi abbiamo creduto sempre nella Banca Popolare di Milano. Quando diciamo, ogni volta che ci sono state delle emissioni delle obbligazionarie, siamo sempre stati rincorsi ovviamente dai promotori della banca. E finché avevamo una certa età, questo poteva essere anche una cosa, diciamo, che potevamo aderire o meno, e comprando le azioni e così. Noi da molti anni non eravamo più azionisti. Sulla questione del convertendo, noi siamo stati, premetto che mio marito ha 84 anni e io ne ho 74. Complimenti per la vivacità e la grande anche conoscenza della dinamica della relazione con la banca, perché come parla lei del convertendo, ho già capito che insomma è molto padrona della situazione, Ernesta. Che cosa vorrebbe raccontare? Sono emozionata perché ho una rabbia interna. Ho una rabbia interna perché siamo stati rincorsi veramente per aderire a questa cosa, e sapevano tutte le persone che erano preposte ad offrire i prodotti della banca, perché noi avevamo fondi della banca e tutto, che non volevamo correre rischi perché non avevamo l'età per poter poi eventualmente così, ma no, qui là. Le premetto anche che come hanno piazzato il convertendo ed è venuta fuori la questione che sono stati multati di 175.000 sì. euro i tre dirigenti della banca, sì, adesso non ci siamo messi a fare nomi e cognomi questa mattina perché a noi più che altro interessa tutelare voi, Ernesta, però questa vicenda anche c'è, poi magari ce la facciamo raccontare di nuovo anche dal collega del Sole 24 Ore, Stefano Elli. Detto questo, Ernesta, vorrei andare un po' proprio alla ciccia, lei l'hanno rincorsa, ci ha detto che la farsa della questione dell'assemblea è stata una farsa, perché noi tutti piccoli risparmiatori siamo andati in assemblea convinti di poter dire la nostra e tutti abbiamo votato no, purché tre persone, dei quali l'amministratore delegato, che ha detto, e poi è stato anche sui giornali, quindi, che aveva 100.000 euro di convertendo, e più altre due persone che avevano tutte le deleghe di tutti gli istituzionali, quindi noi eravamo l'uno e qualcosa per cento, quindi hanno fatto passare la mozione che questa assemblea è stata una farsa, perché già loro in partenza sapevano come si dovevano muovere. Ernesta, certo, grazie per la sua testimonianza che ci è molto utile per suffragare anche il discorso che vogliamo fare. Intanto le modalità con cui questo prodotto è stato collocato e l'assemblea appunto di fine dicembre con cui è stata deliberata la conversione del prestito. Detto questo, Ernesta, le posso chiedere lei quanto ci sta perdendo con questa operazione? Se non si trovassero delle forme di risarcimento? Che hanno piazzato queste cose, che hanno invogliato il cliente o meno, sono stati trasferiti, perché anche dalla mia agenzia, la signora che mi ha fatto questa proposta e che mi ha fatto aderire a questo. Non c'è più. Ernesta, si calmi. Le posso chiedere quanto ci sta perdendo con questa operazione se non si trovassero delle adeguate forme di risarcimento allo stato attuale? Da quello che io ho investito? Sì, esatto. La cifra? Sì. 20.000 euro? Quindi lei aveva aderito, aveva acquistato obbligazioni per 20.000 euro. E adesso bisogna per qua. Mi ritrovo che adesso non. Sì, bisognerebbe fare il calcolo. L'avevo appena visto sul coso che è 2000 e qualcosa. Ernesta, grazie di cuore per la sua testimonianza. La questione sono sicura che non finisce qua e che o che lo faccia la banca o che intraprendano delle iniziative le associazioni dei consumatori, non sarà questa l'ultima volta dalla quale si parlerà della vostra situazione. Con chi comincio? Ho l'imbarazzo della scelta. Vorrei cominciare con Alessandro Pedone, che per il sito dell'ADUC ha ricostruito nel dettaglio tutta questa vicenda, soffermando molta della sua attenzione proprio su i punti chiave dell'intervento della nostra ascoltatrice, le modalità con cui il prodotto è stato collocato, rincorrendoli naturalmente, ma sull'obbligazione bancaria adesso molte banche rincorrono i clienti perché devono fare raccolta. Questa pratica è cominciata già da qualche anno, da quando c'è la crisi del credito a livello europeo. Seconda cosa, appare Ernesto ovviamente un profilo di risparmiatrice molto cauto, molto prudente, e qua gli è stato piazzato un prodotto invece piuttosto rischioso, dalla modalità appunto di funzionamento piuttosto complicata, e chi più ne ha più ne metta. E poi l'assemblea di fine dicembre, Pedone, che è stata appunto caratterizzata da dei momenti piuttosto particolari, e comunque la voce dei piccoli obbligazionisti sicuramente non ha avuto nessun peso. Da dove vuole cominciare? Sì, tanta carne al fuoco, di sicuro. L'elemento che a mio avviso è quello centrale è appunto il collocamento, cioè le varie violazioni alla normativa di settore che sono state fatte in sede di collocamento, e questo non lo dico io o non lo dice un'associazione di consumatori, ma la Consob ha ricostruito in maniera molto dettagliata, arrivando proprio fino a casi specifici e a statistiche sul numero di collocamento, le cose che sono state fatte, e arrivando poi appunto, come è già stato detto anche dall'ascoltatrice correttamente, a emettere delle sanzioni. Quindi c'è stato proprio un grave errore di collocamento. Il prodotto era stato venduto ed è venduto come un prodotto obbligazionario, ma di obbligazionario non ha assolutamente niente se non appunto la caratteristica della cedola, cioè le apparenze. Ma sottoscrivendo questo prodotto si diventava azionisti, perché non si aveva la facoltà, come succede in tutte le obbligazioni convertibili, ma si aveva l'obbligo di diventare azionisti a scadenza. Per quanto riguarda, finisco subito, il discorso dell'assemblea, il discorso dell'assemblea è vero, ci sono molti punti di criticità, eccetera, e è probabile, è ragionevole pensare che se non ci fosse stata la conversione il 29 dicembre, gli obbligazionisti avrebbero avuto un danno leggermente inferiore, ma il grosso del danno, ricordiamo che qui stiamo parlando dell'89% del danno rispetto al capitale investito, cioè rispetto al valore nominale stiamo parlando dell'89% di perdita, il grosso di questa perdita sarebbe comunque avvenuta a giugno 2013, lenita soltanto leggermente dalle cedole che sarebbero state prese nel 2012 e in parte nel 2013. Allora, ma il danno è infatti, era già ci sarebbe già stato. Allora, ci spiega, visto che poi mi perdoneranno gli altri ospiti, ma abbiamo tutta la mezz'ora successiva per poter interagire anche con loro, mi spiega come mai ha questa convinzione, ripartendo, facendo magari proprio un esempio di un investimento tipo che magari una investitrice come Ernesta o un altro investitore avrebbe potuto fare nel periodo di sottoscrizione che andava dal 7 settembre del 2009 al 31 dicembre del 2009. Allora, ammettendo di aderire a questo prestito convertendo, si andava allo sportello della Popolare di Milano e si diceva: guardi, io, come nel caso di Ernesta, 20.000 euro e sottoscrivo questo prodotto. Quale sarebbe stato l'evoluzione? Allora, questo in 4 anni praticamente di vita di questo prodotto, questa obbligazione, questo prestito convertendo, riconosceva intanto una cedola annuale, prima cosa, che essendo stata intanto risarcita prima, convertita adesso a dicembre, intanto vengono a mancare nei prossimi 2 anni successivi, primo aspetto, poi se lo vuole spiegare Pedone. Detto questo, come si sarebbe calcolato il capitale finale di questo investimento? Allora, la cosa che andava detta in poche parole, si poteva spiegare molto semplicemente il prodotto dicendo questo: cara signora investitrice, sottoscrivendo questo prodotto lei si impegna a diventare azionista, quindi ad acquistare le azioni della Banca Popolare di Milano a giugno 2013 ad un prezzo minimo di 6 euro, considerando che oggi valgono intorno a 5 euro, quindi si impegna ad acquistare queste azioni al prezzo minimo di 6 euro e in questi 5 anni riceverà una cedola annua del 6,75%. Se a scadenza le azioni valessero molto meno, lei prenderà una perdita più alta rispetto a quella che prenderebbe diventando azionista subito. Se invece varranno molto di più, lei guadagnerà di meno rispetto a quello che guadagnerebbe acquistando le azioni subito, ma già da subito diventa di fatto azionista. Quindi non è un'obbligazione, è di fatto un acquisto dilazionato di azioni della Banca Popolare di Milano. Stefano Elli, posso subito coinvolgerti chiedendoti perché la banca ha avuto necessità in dicembre di anticipare la conversione di questo bond convertendo? Perché non ha potuto aspettare a giugno 2013? Ma diciamo che si è trovato in una situazione abbastanza di pressione, anche sotto il profilo dell'andamento del titolo. La situazione non era sicuramente la migliore sotto il profilo proprio dell'andamento, del trend delle contrattazioni del titolo, e poi ci sono stati ovviamente dei problemi legati anche alla questione dell'ispezione Consob e insomma ci sono stati dei problemi su questo bond. Comunque, a mio giudizio, lo strumento finanziario in sé non è che sia buono o cattivo, deve essere assolutamente sempre adeguato però al profilo di rischio di chi lo sottoscrive. Se posso fare un paragone, come quello di un viaggio aereo: se io salgo su un aereo di linea per andare a Roma, mi aspetto un viaggio normale, però se una volta in quota mi ritrovo con un pilota militare in addestramento, mi fa provare il looping, il tonneau, il minimo che può succedere è un attacco di panico e avrò pure il diritto di protestare. Il punto è che, sapendolo prima, potevo regolarmi. La stessa cosa sarebbe accaduta con questo bond convertendo, perché vi sarebbero stati numerosi sottoscrittori che si sono trovati a bordo di un caccia pensando di essere su un taxi a questo punto. Infatti mi pare che la storia di Ernesta si identifichi molto bene in questo parallelo che tu hai fatto, Stefano. Noi adesso ci dobbiamo già fermare, abbiamo la nostra prima pausa. Adesso quello che cercheremo di capire è intanto quale tipo di strade intendono percorrere le associazioni dei consumatori, perché anche qui ci sono delle idee differenti, e avevo letto appunto che c'era anche la possibilità che la banca avviasse delle iniziative risarcitorie, ma credo che sia una cosa appunto apparsa in maniera anche molto superficiale sui giornali, e forse non c'è ancora nessun tipo di idea su questo. Sono riflessioni che probabilmente ci saranno tra i vertici della BPM nelle prossime riunioni, appunto anche dei vari consigli di amministrazione a gennaio, adesso non so che appuntamenti istituzionali la banca ha questo mese, di fatto non è sicuramente una buona cosa per la reputazione dell'istituto di credito questa vicenda, pertanto io immagino che in qualche maniera se ne dovrà prendere carico. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per ancora le vostre domande, le vostre considerazioni. Subito alla ripresa di Salvadanaio, tra qualche minuto sentiremo anche Giovanni da Milano, poi vado anche all'avvocato appunto Massimo Cerniglia, che ci racconta anche lui dal punto di vista di Federconsumatori quanti consumatori si sono rivolti a questa associazione dei consumatori, che cosa stanno suggerendo di fare in questo momento e cosa sarà auspicabile fare anche nei prossimi mesi. Salvadanaio. Eccoci ritrovati in diretta, oggi diamo voce ad almeno, speriamo, anche se non tutti saranno in ascolto, 15.000 risparmiatori italiani che nel periodo tra il 7 settembre del 2009 e il 31 dicembre del 2009 hanno sottoscritto questo prestito convertendo emesso dalla Banca Popolare di Milano, e il prodotto non è arrivato a sua naturale scadenza perché la banca ha deciso di convertirlo prima in azioni, come era scritto nel prospetto informativo. Ma il tema è che molti sottoscrittori non avevano capito la natura di questo prodotto, che già per natura sua piuttosto complicato, e soprattutto tra le cose che non sono state capite è quante, questa era un'obbligazione in piena regola, quante azioni a scadenza avrebbero ricevuto appunto gli sottoscrittori e a che prezzo. Allora, cioè, stavo leggendo anche molti messaggi di molti ascoltatori, uno mi ha scritto: stai parlando tanto ma non ho ancora capito dove sta il dolo tecnico, state dicendo solo aggettivi e valutazioni emozionali. Allora, il dolo tecnico è magari, pedone, prima di andare a Cerniglia, visto che lei si è soffermato su questo punto, ci ritorno con lei, è la modalità con cui il prodotto è stato collocato, peraltro non ha rispettato i criteri della MIFID. All'inizio, da quello che capisco, questo era definito e proposto dalla banca come un prodotto di investimento a basso rischio. Esattamente, invece non era così. L'avvocato poi potrà anche ancora essere ancora più preciso, certo, di me su questa cosa, ma le violazioni non sono ipotetiche o emozionali come dice il nostro ascoltatore, sono state rilevate dalla Consob e essenzialmente consistono nell'aver collocato un prodotto che ha il massimo livello di rischio anche a persone che non avevano un profilo di rischio adeguato. L'obbligo, l'intermediario ha l'obbligo di fare questo tipo di verifica, e quindi non aver fatto questo e anzi aver proposto queste obbligazioni a questo tipo di persone, come la radioascoltatrice che ci ha chiamato poco fa, esplica una violazione delle normative del settore. Allora, adesso, prima di sentire Giovanni da Milano, Sergio dalla provincia di Monza e Brianza e Roberto dalla provincia di Parma, c'era anche un'altra questione che la Consob ha sollevato e che Alessandro Pedone, nella sua ricostruzione che è pubblicata su Aduc, ricordava, che la Consob ha rilevato che un numero insolitamente elevato di clienti risultavano aver richiesto di propria iniziativa la sottoscrizione del convertendo. Avvocato Cerniglia, legale della Federconsumatori, se le immagina lei tutti questi 15.000 risparmiatori che entravano in banca in quel periodo e dicevano: buongiorno, c'è per caso un convertendo da sottoscrivere in questo periodo? Guardi, le banche quando si devono difendere dicono sempre così, che è stata un'iniziativa dell'investitore quella di richiedere il prodotto. In centinaia e migliaia di processi per il bond Cirio, Parma, hanno sempre detto così. Invece è esattamente il contrario. Sono, nella maggior parte dei casi, nell'80-90% dei casi, sono praticamente le banche che propongono agli investitori e ai risparmiatori determinati prodotti. Quello però che voglio dire, che una cosa secondo me è essenziale, che io investitore posso comprare qualsiasi prodotto, anche il prodotto peggiore, il prodotto più rischioso, però la regola fondamentale è che l'intermediario finanziario deve spiegare e deve rendere edotto l'investitore di quelle che sono le caratteristiche del prodotto, e ciò ai sensi dell'articolo 21 del testo unico finanziario e dell'articolo ex articolo 28 del regolamento Consob. Cioè il problema dove sta il dolo, è stato detto da qualche ascoltatore, il dolo sta proprio in questo, che la banca non avrebbe informato ai sensi dell'articolo 21 gli investitori dell'alto profilo di rischio del prodotto. Non ci dobbiamo dimenticare, questo l'ha detto molto bene il dottor Pedone, che questo era un prodotto strutturato, che aveva delle caratteristiche derivative molto evidenti ed aveva un profilo di rischio molto alto, era detto in modo esplicito nel prospetto informativo. Ai sensi poi della comunicazione Consob, secondo le istruzioni di vigilanza Consob del 25 luglio 2003, per questi prodotti strutturati è necessario che venga consegnato il foglio informativo. Quindi la banca in questa vicenda dovrà anche provare di aver consegnato ai risparmiatori il foglio informativo dove sono contenute le indicazioni essenziali del prodotto. Che è cosa diversa dal prospetto informativo, che generalmente ha delle caratteristiche più complesse, un documento molto più lungo. Il prospetto informativo, tutti sappiamo, è un prospetto di 150-130 pagine e quant'altro. Il foglio informativo è uno strumento molto più sintetico, di poche pagine, dove sono indicate le caratteristiche principali del prodotto. Poi questo prodotto, la Consob, la cosa molto importante che bisogna dire, questo prodotto, proprio perché aveva destato delle perplessità evidentemente, aveva voluto la Consob che venissero inserite i cosiddetti scenari probabilistici, cioè quante probabilità vi potessero essere che il prodotto potesse perdere, e secondo questi scenari probabilistici, addirittura a pagina 30 del prospetto informativo sono indicati, vi era detto che vi era la possibilità addirittura del 70% di perdita del prodotto. Ora io voglio dire, se un risparmiatore è realmente informato in modo puntuale di quelle che sono le caratteristiche del prodotto, quale risparmiatore si va a comprare un prodotto che poteva perdere per il 70% dei casi? Francamente dovrebbe essere un masochista. Certo, soprattutto se poi allo sportello ti dicono guarda che in realtà è un prodotto a basso rischio. È chiaro che poi molti profili di risparmiatori, più che andarsi a leggere questo mattone, si fidano della persona con la quale si relazionano allo sportello. Allora, di che cosa parliamo adesso, andando avanti nel nostro tema? Sentiamo qualche pungolo da parte di qualche ascoltatore e poi, appunto, vi anticipavo già prima, vorrei capire adesso che cosa sarà necessario fare, che cosa è auspicabile fare, cosa potranno fare i risparmiatori, tenendo anche conto, anzi un piccolo flash con Stefano Elli, che anche la magistratura, se non ho capito male, sta indagando su questa vicenda. Stefano, appunto per questo stavo per intervenire, si parlava di dolo tecnico, è una domanda molto specifica quella dell'ascoltatore. In realtà quando si parla di dolo tecnico si parla di diritto penale, e non è un caso forse che la magistratura di Milano, nella persona del dottor Pellicano, sostituto procuratore di Roberto Pellicano, ha già aperto un fascicolo sulla vicenda. Per il momento è stato iscritto a modello 45, cioè si procede anche nei confronti di ignoti, e l'ipotesi di reato è quella di truffa, quindi stiamo abbastanza avanti, insomma, sul fronte del dolo tecnico. Allora, vorrei sentire Sergio dalla provincia di Monza e Brianza, quindi siamo qua vicino. Sergio, buongiorno, anche lei è un sottoscrittore di questo. Esatto, però è stato anche carpito, è venuto il promotore finanziario, mi ha detto di firmare il documento, perché se no avrei avuto un danno di gran lunga superiore a quello che aveva, cioè in poche parole valutavano il 6 e non il 2,70, e questo mi sembra, a parte che non mi ha dato il prospetto informativo quando ho sottoscritto, perché cioè mi sono fidato delle sue parole, e di conseguenza io dico non è possibile, che per me è una società delinquere, perché tanto è vero che adesso io parte del mio conto lo verserò in una cooperativa per punire questa banca e queste persone non corrette nei miei confronti. Allora Sergio, io veramente non so che cosa dire, andrei cauta con le parole, perché però non vorrei che fossimo chiamati anche noi dalla magistratura a rispondere di qualche danno in questo senso. Capisco la vostra frustrazione, però qui di fatto, anche se a venirci a suggerire un prodotto di investimento è il promotore finanziario con il quale magari ci interfacciamo da tutta la vita, dobbiamo comunque esigere che ci dia prima della firma, perché non muore nessuno se invece di firmare oggi pomeriggio firmiamo domani o dopodomani, che ci dia tutta la documentazione necessaria ad informarci al meglio sul prodotto. Poi io capisco che qua si fa bene a parlare, poi si razzola diversamente perché appunto abbiamo queste relazioni di fiducia, perché abbiamo fretta, perché non abbiamo tempo invece di oggi di incontrarci domani, però detto questo, soprattutto quando una cosa non è chiara. Però Pedone, volevo tornare a lei, e Sergio ha tirato in ballo questa storia del prezzo a 2,71 euro. Ci spiega nella dinamica appunto del funzionamento del convertendo perché entra in campo ad un certo punto anche questo prezzo del prestito? La cosa è abbastanza semplice, si può spiegare in maniera abbastanza semplice. Per ogni 100 euro di valore nominale di questa obbligazione, quindi di capitale investito nel 2009, venivano riconosciute a scadenza un certo numero di azioni, calcolate con un prezzo determinato con questa logica. Minimo il prezzo era 6 euro, massimo il prezzo era 7 euro. Se a scadenza il prezzo dell'azione fosse stato all'interno di questa fascia tra 6 e 7 euro, si sarebbe utilizzato il prezzo di allora. Questo che significa? Significa che più basso è il prezzo e più azioni io ricevo, ma poiché io le azioni a scadenza hanno un valore che dipende dal valore di mercato a scadenza, io ho convenienza ad avere il maggior numero di azioni. Quindi il fatto di aver portato il prezzo di conversione delle azioni da 6 euro a 2,7 significa che gli obbligazionisti hanno ricevuto più azioni di quelle che avrebbero ricevuto senza questa modifica. E quindi diciamo, ora, teoricamente questo non è un regalo della banca, sia ben chiaro, questo non è affatto un regalo della banca, questa era una necessità. Perché grazie in virtù dell'aumento di capitale che è stato fatto, il prezzo delle azioni era diminuito moltissimo proprio in virtù di questo aumento, e quindi era logico, ad anzi era obbligatorio dal prospetto informativo che adeguassero il prezzo di conversione che era stato fissato nel 2009 quando le azioni avevano un certo valore al prezzo con il nuovo adeguamento relativo all'aumento di capitale. Quindi non mi starei a fossilizzare sul fatto che hanno abbassato il prezzo, perché lo dovevano fare e soprattutto va nell'interesse, fra virgolette, dell'obbligazionista che invece di avere un danno del 95% in questo modo ha un danno del 90%, è sempre una mazzata incredibile e enorme. Però non andiamo a cercare i problemi dove non ci sono, insomma, non è quello l'aspetto. C'è un'ascoltatrice che tra l'altro si vorrebbe togliere la curiosità su quanto ha raccolto la BPM con questa operazione. Allora, io ho qualche cifra: l'emissione ammontava a 459 milioni di euro, è stata sottoscritta per 170 milioni circa, almeno spero che queste appunto siano le cifre corrette, ma le abbiamo ricostruite. Allora, chi sentiamo adesso prima di sentire che cosa faranno le associazioni dei consumatori? Vorrei sentire, si ritorna sul tema del prospetto informativo, che in questo caso io certo che anche a giudicare da quello che mi ha raccontato Alessandro Pedone poco fa, io già sentendo quella dinamica là mi sarei scoraggiata da un investimento di questo tipo. Mi piacerebbe proprio capire come allo sportello un impiegato l'ha spiegata ai sottoscrittori davvero. No, è sparito l'ascoltatore, ce l'abbiamo ancora? Come si chiama? Roberto, buongiorno. Pronto? Mi sente? Dov'è finito Roberto? Ma dove se n'è andato? Pronto? Sì, ci siamo. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Ma lei si sbrighi, si era scappato via dal telefono. Buongiorno. No, grazie. Ecco, le chiedevo, io per tagliare la testa al toro, visto che il prospetto informativo uno se lo porta a casa, se lo legge un paio di giorni, se non lo capisce lo fa leggere a chi magari è più competente, è più leggibile perché ci sono 100 pagine illeggibili, e così la banca si evita di fare causa alla banca, perché sì, il promotore finanziario magari gli ha anche spiegato bene, però se uno magari non è competente di finanza così è difficile capire chi ha torto, chi ha ragione. Io chiamavo per quello. No, Roberto, va bene, la ringrazio. Comunque il tema è in ogni caso farselo dare, questo documento in cui si spiegano i dettagli del prodotto di investimento che si scelgano. Poi se uno ha anche un po' lo stomaco di leggersi questi mattonazzi, come ho già detto prima, tanto di guadagnato, e magari rivolgersi anche a un esperto terzo per farsi aiutare a comprendere ciò che sfugge, e molto spesso sono tante cose. Salva Danaio. Allora, Salva Danaio oggi affronta una questione che è piuttosto complessa, e comunque la questione che riguarda diverse migliaia di risparmiatori che hanno in portafoglio questo prestito convertendo della Popolare di Milano, che è stato convertito in dicembre. Peraltro Massimo Cerniglia, avvocato Cerniglia, a questo punto l'equivalente della conversione è già stata accreditata sui conti titoli dei risparmiatori? Da quello che le risulta? A quello che risulta a noi no, ancora no. Ancora no. Da quello che noi sappiamo. Per cui magari qualcuno starà facendo anche questo esercizio di calcolo di quanto si troverà nei prossimi giorni appunto nel conto titoli rispetto a quanto ha investito nel 2009. Allora, Avvocato Cerniglia, comincio con lei. La sua associazione dei consumatori insieme ad altre state ipotizzando di avviare un'azione collettiva, una class action. Ci spiega qual è la ratio di questa decisione, che cosa intendete fare anche per raccogliere tutte le adesioni possibili appunto per poterla rendere ancora più forte questa iniziativa collettiva? Guardi, noi stiamo ipotizzando varie azioni legali, perché bisogna dire questo, il titolo è stato collocato in due fasi, una prima fase che va fino a luglio del 2009. In questa prima fase quindi c'è stato un collocamento pari a circa il 36%. Ah, io pensavo che il periodo di sottoscrizione si fosse limitato tra il settembre e il dicembre del 2009, quindi era già iniziato prima. Ci sono due fasi. Ah. Una prima fase che va appunto da luglio, si è chiusa a luglio, e una seconda fase invece che si è aperta il 7 settembre e si è chiusa il 30 dicembre del 2009. Ed erano tutte le obbligazioni che non erano state optate dagli azionisti e dai precedenti obbligazionisti, cui era riservata la prima parte del collocamento. Mi spiego? Quindi sì, erano due. La seconda parte del collocamento era invece indirizzata al 66% dei soggetti che erano i portatori di conto corrente e di deposito titoli. Quindi questi soggetti, quindi il cosiddetto vero e proprio retail, diciamo. Sì, allora, perché alla prima fase, allora lei mi sta dicendo che era rivolta ad investitori istituzionali che non hanno gradito molto l'operazione, per cui la banca... adesso sarà anche una congettura che faccio io, però mi pare che la dinamica sia stata questa. Ecco. Esatto, la maggior parte erano investitori istituzionali. Allora cosa c'è da dire? Che noi sappiamo che la class actions praticamente è esperibile solamente dal 16 agosto del 2009. Quindi per quei diritti contrattuali che sono stati violati dal 16 agosto del 2009, e poteva essere promossa la class actions solamente dal 1 gennaio del 2010. Abbiamo questi due termini temporali, uno sostanziale e uno processuale. Quindi il termine temporale sostanziale c'è, perché praticamente la violazione sarebbe stata effettuata da settembre del 2009 e quindi dopo il 16 agosto del 2009 e quindi ci siamo, la class actions dovrebbe essere proposta oggi e quindi dopo il 1 gennaio e quindi ci siamo pure qui e quindi ci sarebbe questa ipotesi della class actions da proporre per la violazione di diritti contrattuali o per quello che possiamo chiamare anche agevolmente pratiche commerciali scorrette. È una situazione di pratiche commerciali scorrette. Ecco. Per coloro che hanno investito in epoca precedente c'è pur sempre l'azione individuale. L'azione individuale, cioè possono fare la causa sempre denunciando la violazione degli obblighi informativi stabiliti dall'articolo 21 e prima 28, poi successivamente cambiato con la MIFID, del regolamento Consob, possono quindi andare a denunciare in via individuale o con azioni collettive. Azioni collettive che vuol dire? Si mettono 10 persone in un unico atto di citazione e fanno un'unica causa e quindi azioni collettive, quindi questo per cercare di risparmiare i costi del giudizio. Infatti, allora, tra l'altro, per sensibilizzare i risparmiatori nei confronti di questa vicenda e della sua possibile evoluzione, so che voi avete indetto un'assemblea che si svolgerà, lo segnalo agli ascoltatori che vorranno partecipare, il 9 gennaio alle 9.30, dalle 9.30 alle 13 presso il Salone di Vittorio alla Camera del Lavoro di Milano. Poi magari questi parametri li mettiamo anche sul nostro profilo Facebook per chi li volesse ricordare. Dottor Pedone, Adu, che invece so che voi siete più convinti che la strada più sicura sia quella di contestare individualmente il collocamento e chiedere risarcimento danni, perché la class action non la convince? Ma io auguro veramente la massima fortuna a questa iniziativa e spero che possa essere accolta dal Tribunale. I nostri legali hanno enormi perplessità su questa cosa, perché la norma parla di situazione identica e diritti identici, poiché la contestazione principale attiene appunto al collocamento, al fatto che la persona non è stata informata e che il profilo di rischio non era adeguato al rischio del prodotto, parlare di identicità di queste situazioni, quindi una classe che si trovi in una stessa identica condizione, quindi stesso profilo, stessa dimostrazione di mancata informativa, ci sembra molto molto alto. Ci piacerebbe avere una class action vera in Italia, purtroppo abbiamo una legge contro la class action, perché è strutturata per rendere più difficile possibile l'applicazione di questa class action e renderla anche inefficace in via preventiva, perché le nazioni dove questo strumento esiste seriamente, esiste anche il danno punitivo, che è appunto lo strumento che rende, come dire, coloro che vogliono fare questo tipo di azione assolutamente in allerta, perché sanno che vanno a rischiare moltissimo. In realtà purtroppo in Italia abbiamo una legge contro la class action. Quindi per voi in sostanza, ecco, per ritornare al nostro caso, manca il presupposto dei diritti identici. Allora ci spiega quali sono i vostri suggerimenti relativamente al perseguimento della strada e del percorso individuale per contestare il collocamento e la sottoscrizione di questo prodotto allo sportello bancario. In questo caso vorrei sperare che la banca in questo caso faccia veramente un atto anche per, come dire, tutelare un attimo la sua immagine, che in questo momento è disastrosa, perché è vero che prima è detto ogni prodotto in sé è legittimo eccetera, però guardiamo anche ai fatti, questo era un prodotto veramente da sottoscrivere in maniera, come dire, era impossibile sostanzialmente guadagnarci, quindi di per sé era un prodotto nel quale la banca risolveva parte dei suoi specifici problemi relativi al proprio capitale e accollava sui propri clienti un probabilissimo danno molto elevato in futuro, che si è rivelato disastroso anche per gli effetti del mercato, e allora non era prevedibile, ma era sicuramente prevedibile che un danno ci sarebbe stato ed era scritto nel prospetto informativo, quindi presentarsi collocando un prodotto del genere è un danno di immagine incredibile. Allora, aver fatto questo danno, io voglio sperare che la banca analizzi caso per caso, e laddove si dimostri per esempio che il profilo di rischio o non era adeguato o era stato immediatamente modificato prima della sottoscrizione di questo prodotto, quindi in casi, in situazioni dove si accerta che c'è stato un comportamento quantomeno molto probabilmente scorretto, che la banca stessa non arrivi ad avere migliaia e migliaia di azioni legali individuali, perché purtroppo io ritengo che questa sarà l'unica strada, e quindi provveda ad un risarcimento in via transattiva preventiva. Allora, sì, seguiremo sicuramente l'evoluzione di questa vicenda. Che cosa possiamo fare adesso? Sentire intanto Giovanni da Milano, perché comunque molti ascoltatori ovviamente sollevano dubbi, lo ha fatto per prima la nostra Ernesta che ci ha chiamato all'inizio, anche dubbi molto forti sullo svolgimento dell'assemblea di cui parlavamo prima, nella quale è stato deliberato appunto il rimborso anticipato di questo prodotto. Giovanni da Milano, buongiorno rapidissimo, perché ormai siamo sulla chiusura, buona giornata. Buongiorno, lei ha toccato un tema fondamentale, quello della fiducia che abbiamo nelle persone che ci chiedono di sottoscrivere questi prezzi, che sono i dipendenti. Il problema è che poi dall'alto arrivano budget, arrivano una serie di richieste o di pressioni sul personale, e poi quando lei parla di multe della Consob, a questo punto sono multe irrilevanti, mi vengono in mente quelle che hanno dato alle assicurazioni, 800 ma milioni sì, di euro. Sì, anche quelle, Giovanni, che danno alle telecomunicazioni, fanno prima pagare la multa piuttosto che ovviamente fare pratiche commerciali scorrette, abbiamo detto tante volte. Già messe nel budget, quindi hanno già detto pagheremo queste multe, però i piccoli azionisti, i risparmiatori, sono quelli che rimarranno un po' così, sempre con qualcosa di amaro. Un'ultima cosa, la moral suasion, lei tenga in considerazione anche che quando uno è un correntista arriva sempre la chiamata del direttore che sa che deve avere un figlio, che deve avere una cosa o deve avere un'altra, e le dicono anche ma perché non mi prende 5.000, 10.000, 20.000, quindi è un tema veramente ampissimo. Giovanni, grazie per avercelo ricontato, anche a lei buon anno. Naturalmente vorrei chiudere con Stefano Elli per capire se in questo frangente di tempo in cui è indagato su questo caso per il giornale, per Plus 24, ha avuto modo anche di interfacciarsi con la banca per capire che aria c'è, che cosa dicono su questa vicenda, o le bocche sono assolutamente tappate e chiuse. Mi permetto di suggerire una situazione un po' paradossale, perché la Banca Popolare di Milano è quella che fa del voto capitario la propria bandiera, nel momento in cui va in assemblea con i bondholder invece del convertendo, con le deleghe molto concentrate. E vabbè, questa è una prima nota. Quanto all'atteggiamento della banca, io non sottovaluterei l'ipotesi di un eventuale ricorso a tavoli di concertazione con l'associazione dei risparmiatori. Che esistono già, peraltro, quindi ci sono dei percorsi già studiati che funzionano. Probabilmente sì, anche perché è già accaduto, mi sembra di ricordare nel caso del Monte Paschi di Siena, quando c'è stata la famosa questione sui titoli My Way e For You. Sì, no? Che Pedone conosce molto bene, peraltro, sì. Ecco, mi sembra che sì, perlomeno in quella circostanza si sia ricorso a un tavolo di concertazione paritetico, in cui è un tavolo, in buona sostanza, in cui si siedono le associazioni dei risparmiatori insieme agli organi della banca e si arriva caso per caso ad individuare un percorso risarcitorio congruo. Sarebbe splendido nelle prossime settimane poter avere qua un rappresentante di questa banca che ci racconta proprio come intendono conciliare su questo caso. 30 secondi di tempo, perché li invocava tanto l'avvocato Cerniglia, per concludere. Grazie. Sì, volevo solo aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto il dottor Pedone. La sentenza della Corte d'Appello di Torino per un caso di class actions relativa alle commissioni di massimo scoperto, su Intesa San Paolo, ha praticamente parlato di situazioni omogenee, non situazioni identiche. Quindi stiamo parlando di una cosa un po' differente, perché sennò la class actions sarebbe improponibile e la situazione sarebbero situazioni omogenee, perché sarebbero situazioni dove c'è stato un difetto di informativa ai risparmiatori. Benissimo. Avvocato Cerniglia, queste cose le lasciamo a voi, che già per noi, dopo aver incompreso il bond convertendo, adesso se ci dovessimo avventurare anche sul terreno giuridico in questi termini, complicheremmo ancora ulteriormente le cose. Comunque è un tema del quale sicuramente ci toccherà riparlare nelle prossime settimane, nella speranza naturalmente che questa banca faccia il suo per venire incontro a queste 15.000 persone, lasciatemelo dire, ben gabbate. Grazie a tutti per essere stati con noi ci risentiamo stasera a Focus Economia. Buona giornata.